Questa proposta di legge tende a far ritirare le preintese già siglate nel 2019 fra il presidente della nostra regione, Stefano Bonaccini, e il governo. Abbiamo presentato questa legge di iniziativa popolare con quasi 400 firme che erano quelle che ci chiedeva la regione. Ricordo soltanto che è un periodo molto brutto per la partecipazione perché si tende alla poca trasparenza e all'impedire il più possibile la partecipazione. Noi siamo molto preoccupati e speriamo che la consulta non faccia dei tiri mancini e speriamo che le altre quattro LIP di Reca possano andare avanti e non siano parcheggiate ancora per 6 mesi, un anno. Cioè la partecipazione è impedita in questo momento. La nostra forza e quello, la nostra motivazione viene soprattutto dal fatto che tutte le persone che noi riusciamo a informare, anche solo in 1 o 2 minuti, non le perdiamo più. Perché quello che è mancato è mancata l'informazione, manca la trasparenza. Per quanto farlocchi possano essere stati i referendum in Lombardia e in Veneto sulla richiesta ai cittadini di autonomia differenziata da parte dei loro presidenti, comunque hanno messo l'argomento in maniera trasparente, comunque le persone sono state informate. Qui in Emilia-Romagna invece niente. E ha voglia che si dica gli emiliano-romagnoli vogliono l'autonomia differenziata perché nessuno protesta. Per forza non protestano, nessuno sa niente. Quindi adesso che avete presentato la legge, che cosa riserva il futuro? Quali sono i prossimi passi? Dal punto di vista politico, che Bonaccini se ne faccia una ragione, visto che lui vuole la dichiarazione, l'autonomia differenziata, perché la differenza fra lui e tutto l'altro mondo del suo partito è che il suo partito dice che sono contro il DDL Calderoli, lui dice che è contro il DDL Calderoli, ma vuole anche l'autonomia differenziata, anziché come la fa lui, la fa bene. Se lei pensa a qualsiasi materia, anche se qualcuno è stata spunta, va a pesare sulle punte, tipo se io tiro fuori la scuola, la materia lavoro con i contratti regionali e quindi contratti territoriali influenzerà anche i contratti della scuola. Avremo docenti con contratti regionali, docenti con contratti nazionali, stessa cosa nella sanità che può addirittura peggiorare per lo stesso motivo o per la materia dell'ambiente, no? Abbiamo visto quello che è successo, per cui nella sanità, la salute, l'ambiente, lei pensi cosa potrebbe succedere con un'emergenza ancora più grossa di quelle che abbiamo visto, non dal punto di vista dell'Unione, proprio dal punto di vista del benessere, visto che oramai il servizio sanitario regionale e pubblico ormai è diario a quello privato e non il contrario come dovrebbe essere. Dal punto di vista tecnico, abbiamo 10 giorni per la validazione delle prime firme che abbiamo portato, poi va in consulta regionale dove esprimeranno parere di ammissibilità, hanno 30 giorni di tempo, se l'ammissibilità viene data, e noi speriamo veramente di sì, perché hanno un bel po' di cose da farsi perdonare in regione rispetto a come hanno trattato i 3.000 e passa cittadini della petizione, alla fine di luglio dovremo 3 mesi di tempo per partire con le firme e nel momento in cui partiamo 180 giorni di tempo.